gentilezza, bontà, ricordo, bontà, gentilezza, diversità, gentilezza, lealtà, aiuto, aiuto, libertà, libertà, bontà, lealtà, libertà, lealtà, diversità, diversità, amore, ricordo. Il 27 gennaio di 78 anni fa tutte le persone sono state liberate. C'erano uomini. Noi, ragazzi e ragazze di Quinta, abbiamo imparato due poesie scritte da persone uccise nei campi di concentramento. I nostri versi sono stati scritti da Anna Frank. Prova, anche tu. Una volta che ti senti solo, o infelice o triste, a guardare fuori dalla soffitta, quando il tempo è così bello. Non le case o i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, sarai sicuro di essere puro dentro e tornerai ad essere felice. C'erano uomini, donne e ragazzini. C'erano vecchi, mamme e bambini. C'erano silenzi, uomini sporchi e malati. C'erano punizioni e lavori forzati. C'erano lacrime e ricordi di vite già lontane. C'erano dolori, miserie e violenze disumane. C'erano eserciti, fili spinati e fredde prigioni. C'erano divise, numeri incisi ed esecuzioni. C'erano stenti, fame e malattie. C'erano ghetti, campi ed epidemie. C'erano vergogna, peso di un pensiero violento. Ma anche sogni e speranze. Fino all'ultimo lamento. Dobbiamo ricordare per non commettere più questo grande errore.